Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Sara Fornito, una delle due componenti del duo bolognese Cenere, a cui do appunto il buon pomeriggio. Ciao Sara, benvenuta. Ciao Adele, ciao. Il 27 maggio è uscito il nuovo brano di Cenere, A testa in giù. Prima di parlare di questa nuova uscita, vorrei innanzitutto chiederti, Sara, di raccontarci chi sono Cenere e come nasce questo progetto. Sì, Cenere nasce da due realtà molto diverse. La mia, che appunto ero la cantante di Diva Scarlett e Decana, è una band rock, diciamo, che è iniziata nel 96 ed è, diciamo, terminata nel 2013, e Rebecca, che è una violinista di formazione classica e collabora con diverse orchestre. Adesso non è qui con me purtroppo perché è a suonare con Elisa, con l'Orchestra Filarmonica Italiana, la Reina di Verona, e quindi mondo rock e mondo classico che si fondono insieme. Ci conoscevamo già da tempo perché lei ha collaborato appunto con Diva Scarlett e abbiamo deciso durante il lockdown di provare a fare qualcosa insieme, ecco. Un po' diverso. A testa in giù è il vostro ultimo brano, che è uscito il 27 maggio. Come descriveresti questa nuova uscita e come emerge questa duplice anima di Cenere, una rock e una classica? A testa in giù, diciamo che esprime lo sfogo totale del post-lockdown, quindi proprio la canzone parla proprio di questo. È molto frizzante, molto rock, con questo riff molto ripetitivo, bello, e ne faremo anche la versione classica, perché in questa versione Rebecca ha suonato le chitarre elettriche, ma stiamo preparando degli unplugged acustici per dargli appunto quel gusto particolare, ecco. Ci sono anche nuovi progetti oltre all'uscita di questo singolo per le Cenere? Allora sì, nel senso che l'1 giugno uscirà il videoclip ufficiale, quindi poi dopo vi invito ad andare a vederlo perché è molto molto particolare, molto carino, fatto da Advista, questa agenzia di Padova cinematografica molto molto brava. Poi altri pezzi, perché chiaramente stiamo continuando a scrivere, quindi stiamo cercando delle produzioni artistiche interessanti per poter poi finalizzare i nuovi pezzi. Ti faccio anche l'ultima domanda, Sara, o magari un po' più propositiva anche per il futuro, se potremo anche venire a sentire ed ascoltare le Cenere live, nel caso qualche indicazione. Allora, io chiaramente vi invito a seguire le nostre pagine su Facebook, in cui ovviamente pubblicheremo tutti gli eventi possibili e immaginabili, però spero che ci chiamino, perché è la prima volta che un gruppo si forma appunto durante questa fase di lockdown, e quindi siamo partite prima dalla composizione piuttosto che dai live, e quindi insomma speriamo che ci chiamino in qualsiasi festival in ripresa, per poter sfogare, diciamo, la nostra music. Quindi seguiteci sui social e vi aggiorniamo sicuramente. Abbiamo qualcosa in ballo forse per il 10 di luglio e il 24 luglio, però ancora non sono certe. Sara, io ti ringrazio, auguro chiaramente una buona fortuna alle Cenere e speriamo anche di risentirci presto, magari in occasione delle prossime pubblicazioni. Grazie mille, soprattutto a Radio Città Fujiko che ci ha, diciamo, lanciate con il nostro primo brano, Che differenza fa, e quindi grazie ancora perché siete i nostri migliori supporter per ora. Grazie.